furbetti del catasto e del fisco hanno casa a Cuneo. L'agenzia del territorio, incrociando i dati con le foto aeree, ha diffuso la mappa delle case fantasma in Italia, quelle non dichiarate al fisco. Spulciando i dati si fanno scoperte interessanti. Considerando ad esempio non tanto il numero di immobili non registrati che sono improvvisamente venuti alla luce, ma il valore di questi, si scopre che subito dopo la provincia di Trapani, la rendita emersa maggiore riguarda Cuneo, sì proprio Cuneo Profondo Nord. E così, mentre a Trapani l'emersione ha portato all'attribuzione di una maggiore rendita catastale di 88 milioni di euro, a Cuneo non scherzano, con ben 52 milioni di euro di valore emersi dal nulla. Seguono, ma a grande distanza, Napoli e Frosinone con 29 milioni di rendite finora occultate, poi Roma e Bari con 23 milioni, Torino e Salerno con 20 e Milano e Brescia, dove siamo a 17 ciascuna. E così dopo la Sicilia è il Piemonte, la regione dove sono emersi più immobili che prima non erano dichiarati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.